X24, la storia. Nel momento in cui mi accingo a firmare l'atto di dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica, sento il dovere di rivolgermi direttamente a voi, cittadini italiani, per dissipare sensazioni che un avvenimento senza precedenti nella storia della nostra Repubblica potrebbe provocare. Lui uscì dal Quirinale dopo aver firmato l'atto di dimissione con la pioggia battente e nessuno andò a salutarlo. La cosa di un'amarezza, non so, indefinibile. Forse, scusi se dico questo, la pagina più brutta della storia italiana. Per un uomo forse il più meritevole, ma lo devo dire. La pagina più brutta della storia italiana, è questo il ricordo commosso di Vittoria Leone su quella drammatica giornata del giugno del 78, il giorno delle dimissioni di suo marito, Giovanni Leone, dalla carica di Presidente della Repubblica. Un atto senza precedenti che chiude in un modo traumatico la carriera di uno dei padri della Costituzione. Qui a Radio 24 vi raccontiamo l'incredibile storia di Giovanni Leone, la sua parabola, la parabola di un presidente nel mirino distrutto e poi riabilitato. È il 15 giugno del 78 e Giovanni Leone si dimette dalla carica di Presidente della Repubblica. Due volte Presidente del Consiglio, tre volte Presidente della Camera, giurista di fama mondiale, penalista tra i più apprezzati in Europa, eppure da Presidente della Repubblica Leone è stato accusato di tutto: di prendere tangenti dalla Lockheed per la vendita di aerei militari, di abuso edilizio, di frode fiscale. Tutte accuse rivelatesi assolutamente false, che però in quei mesi del 78 hanno costruito una campagna di infamie che ha avuto il suo epilogo con quelle clamorose dimissioni. Ma perché Leone ha deciso di dimettersi? Tutto ha inizio mercoledì 14 giugno del 78. Da mesi ormai il Presidente della Repubblica è sotto il tiro dei giornali degli avversari politici. Al Quirinale si svolge un colloquio riservato tra Leone e l'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Pensavo che forse una via d'uscita potesse ancora trovarsi, perché c'era un forte contrasto sia all'interno nostro sia nell'opinione pubblica su questo tema. Dopo il colloquio con il Presidente del Consiglio Andreotti, Leone incontra anche il segretario della DC Benigno Zaccagnini. Anni dopo l'ex presidente scriverà nelle sue memorie: sono convinto che Zaccagnini agì in quell'occasione in maniera ostile e che alla base del suo atteggiamento, oltre alla sottile e malcelata ostilità politica di sempre, ci fu anche il risentimento per il forte contrasto che avevamo avuto nella conduzione di tutta la vicenda Moro. C'è un problema, i due temperamenti erano due temperamenti assolutamente diversi, a parte l'emiliano e il napoletano, ma insomma proprio direi le caratteristiche, erano delle caratteristiche fisiopsichiche completamente opposte. Lo stesso giorno, Quirinale, ore 23. La sera del 14 giugno, Giovanni Leone scrive un'intervista all'ANSA in cui smonta tutte le accuse contro la sua persona. Ne manda una copia al presidente Andreotti e una al segretario del partito Zaccagnini, da mandare la mattina dopo a Piazza del Gesù e poi da pubblicare. Il presidente è convinto che la faccenda possa chiudersi lì. Il giorno dopo, sede del PC, ore 9. La direzione del Partito Comunista si riunisce per decidere quale posizione assumere nei confronti del capo dello Stato, così Emanuele Macaluso, all'epoca importante dirigente comunista. La direzione del partito era molto persa, ho avuto dei dubbi anch'io, però poi la logica del Partito Comunista era una logica, diciamo così, unitaria. Lo stesso giorno, sede della DC, ore 11:30. A Piazza del Gesù si riunisce la segreteria politica della DC. Zaccagnini è al telefono con Leone. Non ritiene più opportuno che il presidente rilasci l'intervista all'ANSA. Lo stesso giorno, Camera dei Deputati, ore 13:30. A Montecitorio, Giancarlo Paglietta chiede ufficialmente a nome del PC le dimissioni di Leone. Doveva far vedere il Partito Comunista Italiano che contava. E allora ha detto: adesso io condanno Leone, dico che è opportuno che si dimetta, e la DC è andata dietro. Leone scrive anche nelle sue memorie inedite: politicamente le mie dimissioni comunque furono volute dal PC, e accettate o subite dalla DC. Esatto. Che mi ha lasciato solo. Quindi la DC ha lasciato solo Leone? Assolutamente. Beh, insomma, questo mi pare un po' troppo rigoroso, nel senso che la stessa convinzione di Leone era che non c'era niente da fare. Questo non è che lui, perché se lui avesse voluto fare una prova di forza, insomma, certamente noi gliel'avremmo fatta fare. Lo stesso giorno, Quirinale, ore 14:30. Andreotti e Zaccagnini si recano dal presidente Leone per comunicare la decisione della DC. Telefono su e mi disse: Vittorio, prepari i bagagli che ce ne andiamo. Così. Dico: ma come ce ne andiamo? Sì, adesso lascio un messaggio, faccio questo, faccio quello, per stasera tutto pronto e andiamo via. E io disse: andiamo via così, ma sei sicuro? Ma vuoi fare veramente questo? Dice: no, non voglio chiedere, hai chiesto, non voglio chiedere nessuno, non posso più sopportare questo clima. Se non credono in me gli italiani per tutte queste cose, perché devo continuare a mantenere questa posizione? Poi dice: io non gliela faccio, non reggo più questo clima così contro di me, me ne voglio andare. Prepara, fai presto e prepara. E va bene, dice: ce ne andiamo. E va bene, magari mi fa molto piacere andare, certo non in questa maniera. Lui uscì dal Quirinale dopo aver firmato l'atto di dimissione con la pioggia battente e nessuno andò a salutarlo. Mix 24, la storia. Il Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, si è dimesso. Nel momento in cui la campagna diffamatoria sembra aver intaccato la fiducia delle forze politiche, la mia scelta non poteva essere che questa. Credo tuttavia che oggi abbia io il dovere di dirvi, e voi come cittadini italiani abbiate il diritto di essere da me rassicurati, che per 6 anni e mezzo avete avuto come Presidente della Repubblica un uomo onesto. Un uomo onesto, dice Giovanni Leone al momento di dimettersi, e sia la giustizia che la storia gli hanno dato ragione. Ma come è stato possibile allora arrivare a un gesto così clamoroso? Perché Leone è stato infamato da accuse così gravi e così false? Chi e che cosa ha determinato insomma la dimissione del Presidente della Repubblica? Un presunto colpevole che si rivelerà invece innocente a tutti gli effetti. Per capire come sia potuto accadere, però, bisogna capire chi era Giovanni Leone, raccontare la carriera professionale e politica del sesto Presidente della Repubblica. Chi era insomma Giovanni Leone? Raccontarlo come uomo, come padre, come marito e la donna che gli è stata accanto per quasi 60 anni. Vittoria Michitto Leone. Mio marito era una persona libera, che diceva tutto quello che pensava, di bene o di male, così. Aveva un senso di humor straordinario. Lui non sapeva odiare le persone. Lui le considerava sempre, le giustificava sempre, perché pensava che c'era sempre qualche cosa perché loro si erano comportati in questo modo. Quando Giovanni Leone conosce Vittoria Michitto, che ha 20 anni meno di lui, perde la testa. Io sono stata travolta, ecco, devo dirlo proprio, come un turbine così che mi era capitato, non sapevo nemmeno che cosa stessi facendo. Questa persona dopo mi era sembrata piuttosto affascinante, interessante soprattutto, e non bello, assolutamente non bello. Però mi interessava molto. Poi vengo da una famiglia molto, molto tradizionalista, tutta composta, tutto di rispetto. E questa persona così travolgente che si impicciava, che andava avanti, mentre mi sorprendeva, mi affascinava. E col suo parlare, questo parlare che a volte mi interessava, a volte mi dava un fastidio enorme. Quindi un cumulo di sensazioni diverse, ma che andavano avanti e sono andate avanti fin tanto che si stabilì la data. E io così mi trovai all'altare e dissi: ma che sto facendo? Il matrimonio si celebra dopo 5 mesi di fidanzamento. È il 15 luglio 1946. Nel tempo libero il professore trova spazio per il mare. Ma la sua vera passione è un'altra. I libri. sempre valigie di libri. La prima cosa da Vittoria, hai quella valigia, non la toccare, aggiungi questo, aggiungi quell'altro. I libri, lo studi, i libri, la passione era quella. Un uomo legatissimo alla moglie e ai figli dunque, ma anche uno studioso instancabile. Giovanni Leone nasce a Napoli il 3 novembre del 1908, figlio di un celebre avvocato che è anche uno dei fondatori del Partito Popolare. Anche Giovanni Leone diventerà penalista, un penalista di fama. Ma intanto, nel 1946, a soli 38 anni, viene eletto nelle liste della Democrazia Cristiana all'Assemblea Costituente. È l'inizio della sua carriera politica. Innanzitutto, vogliamoci bene. Era fuori dalle correnti, anzi probabilmente questo fu anche un po' un handicap nei confronti suoi, ma però per il suo temperamento non era uomo di corrente Giovanni Leone. Non aveva niente di quello che si chiama il clientelismo. La seduta è ripresa. Poiché vedo nell'aula l'onorevole Leone, io lo prego di venire alla presidenza. L'onorevole Leone si apre dal suo scranno e si avvia a prendere possesso del suo alto incarico. Secondo Francesco Cossiga, Leone è un grandissimo presidente della Camera. Beh, lui fu un grandissimo presidente della Camera. Direi fu il più grande presidente della Camera e dopo di lui lo fu Nendegliotti. Il vicepresidente Mattei, come avete visto, ha abbracciato il nuovo presidente della Camera. Momenti di grandissima tensione, o con una battuta o gridando, perché poi se c'era da essere severo lo era anche, e riusciva a restaurare subito la calma, non ha avuto mai bisogno dell'intervento dei commessi. Stavamo entrando nel salone comune della Camera, c'era una commemorazione di Mazzini. Prima che entrassi mi ha chiamato un momento da parte, ha fatto le corna, mi ha detto: senti, ho sentito dire che Mazzini porta Iella, cosa che per fortuna nessuno vide, perché insomma. Ma la carriera politica non esaurisce l'esperienza di Leone. Quasi più importante per lui è l'insegnamento universitario e l'attività di avvocato penalista. Sul suo manuale di procedura penale si formeranno generazioni intere di avvocati italiani. È dunque questa strada di studioso e di penalista a regalargli le più grandi soddisfazioni. Così Francesco Cossiga. Giovanni Leone era uno dei più grandi penalisti e processualisti penali che l'Italia abbia avuto. Questo da un punto di vista della scienza giuridica. Da un punto di vista del foro, lui era allievo di De Nicola. Uno dei 4-5 avvocati penalisti. Un simpaticissimo giurista napoletano. Il viaggio, siamo andati a Stresa, mentre si stava così ancora facendo dei progetti dove andare, arriva mio marito, legge sul giornale che c'era stata costituita la commissione dei 75 e legge il nome Leone. Dice, boh, chissà chi sarà questo Leone, ma comunque mi voglio informare per sapere chi è questo mio omonimo. E lui dice, che ti informi, cosa vuoi fare, sei te? Lucido, chiaro, senza peli sulla lingua, da giurista come da uomo politico. È con queste credenziali che Giovanni Leone si presenta all'appuntamento più importante della sua carriera politica. È il 21 dicembre del 71, il Parlamento deve eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Dopo molte fumate nere, la candidatura di Amintore Fanfani sembra al tramonto. La Democrazia Cristiana allora si riunisce per proporre un nuovo candidato e la scelta è tra Aldo Moro e Giovanni Leone. Per chi ha votato? Per Moro. Io ho votato per Leone perché pensavo che fosse più adatto, nel senso che era meno dentro le vicende interne di partito. E sa per quanto è uscito Vicente? Per quanto? Poi lo si sa tutto. Per un voto. Con l'aiuto di Dio dedicherò ogni mio pensiero, ogni mio atto al servizio del popolo italiano nel nome augusto della patria. Viva l'Italia! I primi anni del settennato di Leone sono un successo. Ma ad amarlo non è solo la gente comune. Sull'Europeo, Oriana Fallaci scrive. Così, ora che ce l'avevo davanti, mi chiedevo perché mi piacesse. il sorriso affettuoso bonario, gli occhietti teneri maliziosi, l'assenza di ogni presunzione. Sì, forse era questo. La gioia, lui non l'ha mai goduta, proprio dire che gioia. Non c'è mai stato questo momento così di grande felicità per una cosa. Era un fatto normale, non dico nemmeno normale, ma così era una cosa che doveva accadere e basta. Ed era sempre però molto preoccupato quando successi che ne ha avuti nelle varie visite, nelle varie cose, immediatamente attenti perché la gelosia può fare dei brutti scherzi, stiamo attenti. E dico, ma che dobbiamo stare attenti? Che dobbiamo fare? Se è andata bene, sì, contento. Era sempre, ecco, sempre quest'ansia di non so, di quello che poteva accadere. E questo mi faceva male, perché non era bello pensare in questa maniera. Ma anche la moglie di Leone, donna Vittoria, incanta gli italiani con il suo stile. Mi piaceva certamente presentarmi bene, quello sì. Quello mi piaceva, il vestito ben fatto, presentarlo, anche perché pensavo che insomma anche l'Italia ne avesse avuto un certo vantaggio nel essere rappresentato in una certa maniera. E però mi piaceva anche, lo devo dire questo. Però sono anni difficili, gli anni della crisi economica, delle stragi e del terrorismo. Il 14 ottobre 1975 il presidente Leone invia un messaggio alle Camere, un messaggio che disegna la riforma dello Stato repubblicano e della pubblica amministrazione, tutto fondato su principi profondamente liberali, ma non viene tenuto in nessun conto. Così Francesco Cossiga. Lui si sentiva solo fin da allora, mica era, lui era un uomo di un'intelligenza assoluta. Un politico intelligente, ma anche e soprattutto molto solo. Qui a Radio 24 stiamo raccontando la storia di Giovanni Leone, un presidente nel mirino, una vittima sacrificata sull'altare del compromesso storico. Mix 24, la storia. Rieccoci qui a Radio 24, stiamo raccontando la storia di Giovanni Leone, una presidenza difficile che culminerà con un atto storico e clamoroso, le dimissioni nel giugno del 78. Un politico intelligente, ma anche e soprattutto molto, molto solo. La presidenza Leone coincide con gli anni della crisi petrolifera, dell'austerity, del referendum sul divorzio, ma anche e soprattutto dell'escalation del terrorismo. Il 16 marzo del 78 le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro, amico e collega di partito di Giovanni Leone. Ma di fronte al muro della linea della fermezza, ancora una volta Giovanni Leone si rivela un battitore libero. Dal Quirinale infatti farà tutto il possibile per contribuire alla salvezza di Aldo Moro. Fu veramente per lui uno shock straordinario, anche perché avevo conosciuto Moro da sempre e lei mi chiedeva prima qual era la persona che stimava di più. Io devo dire proprio Moro. Intanto molte segnalazioni sulla cosiddetta prigione del popolo arrivano anche alla moglie di Leone. Allora ho preso queste lettere, le ho date alla persona del Quirinale, al segretario generale del Quirinale e agli uffici addetti della polizia del Quirinale, per dire che avevano usato e che si fossero comportati nella maniera che loro credevano più giusta. Cosa potevo fare? Disse ma al partito, ma che state facendo? Si può fare? Niente, non fu proprio calcolato, ecco, non fu proprio calcolato, perché per loro l'argomento era chiuso, non si doveva cedere per ragioni di Stato, che lo Stato non poteva dimostrarsi debole, e questo poi è un fatto che si sa. Amintore Fanfani e Bettino Craxi sono convinti che uno scambio di prigionieri sia possibile. Il presidente è pronto a firmare qualunque richiesta di grazia. Ricordo con precisione quel giorno, era una domenica, quando pronunziai alla presenza di Vassalli e dell'ex avvocato dello Stato Manzari la frase: ho l'anima pronta e la penna a disposizione, per dire io sono pronto a qualsiasi grazia purché mi sia proposta. La Besuccio aveva mandati di cattura obbligatori per altri reati, quindi se lui graziava la Besuccio, la graziava per quel reato, ma per gli altri rimaneva dentro, quindi figurati l'impressione esterna. Se tu grazi uno ma rimani in prigione, sembrerebbe una provocazione, sarebbe sembrato una provocazione. Ma questo è chiaro, a me fu chiaro subito, insomma, ma forse perché insomma, lo guardavo un po' più da vicino. No, però Leone era un grande giurista, l'avrà valutato anche questo aspetto. Ma non so se poi non l'ha valutato o se insomma, lui preferisce poi costruirlo in un modo un po' diverso da quello che era, perché mi pare difficile che non l'abbia valutato, lo sapeva più di me questo. Per Aldo Moro è stato tutto inutile, non è bastata neppure la disponibilità del presidente Leone a firmare la grazia per una brigatista. Ma in quel tragico 78 la notte della Repubblica sembra senza fine. Appena 45 giorni dopo la morte di Moro, dal Quirinale arrivano le dimissioni di Giovanni Leone. Un nuovo shock, una nuova ferita, un nuovo trauma. Ma quali sono state le cause della dimissione? Una sola causa? Un solo movente? Una sola ragione? O più cause, più moventi? Insomma, qual è il vero motivo delle dimissioni di Leone? E quanto ha contato la motivazione giornalistica per una famiglia che era sulla graticola dei media? E proprio la stampa giocò un ruolo chiave in tutto l'affare Leone. Ma con quali accuse contro di lui? E perché hanno avuto un effetto così devastante? Per rispondere a questi interrogativi dobbiamo partire da un libro. Il libro si chiama Giovanni Leone, la carriera di un presidente. È un pamphlet durissimo contro Leone che esce nel marzo del 78 e diventa subito un bestseller. 700.000 copie vendute, 22 ristampe in 7 mesi. A scriverlo è la giornalista Camilla Cederna. Così in un'intervista dell'epoca a Mixer. Disse che lei era stata, si era in qualche modo prestata ad un'operazione un po' preconcetta. Cosa risponde a questa accusa? Le rispondo che non potrei parlare più tanto del caso Leone perché è il processo che va avanti. Senta, ma lei questo libro lo riscriverebbe così? Preciso, no, un po' più duro. Un po' più duro? Sì. Perché ecco, ho saputo poi dopo delle cose, però non mi faccio dire niente perché è il processo civile. Sì, no, ma le faccio ancora dire una cosa sola. Per esempio, lei ha scritto che nel libro che i Leone vendevano le grazie e che il primo graziato da Leone fu il famoso boss malavitoso Antonio Spavone. Ecco, io ho sbagliato, ecco, perché era Saragat. Era stato Saragat. Sì, era stato Saragat, sì. Ecco, come mai ha fatto questo errore? È perché mi è stato detto da qualcuno. Ah. Però devo anche dire che poi dopo un articolo che ho fatto ho corretto il tiro su questo Spavone. Grazie e rapine, parlare e mentire, speculazioni e scandali, le colpe dell'avvocato, i titoli dei capitoli parlano chiaro, ma si tratta di accuse senza fondamento. Infatti, quando i familiari di Leone fanno causa a Camilla Cederna, la giornalista viene condannata ad un risarcimento miliardario, ma la persecuzione mediatica non si ferma e sul settimanale L'Espresso è la volta di un articolo sullo scandalo Lockheed. Una Tangentopoli degli anni 70, che secondo il settimanale coinvolgerebbe anche Leone. Così Gianluigi Melega, giornalista dell'Espresso e autore proprio dell'inchiesta Lockheed. L'accusa sostanziale era quella della corruzione nel caso Lockheed. Si doveva provare però questa cosa. Quindi la corruzione nel caso Lockheed è stata difficilissima da provare. E infatti queste accuse non sono state mai provate, anzi si sono rivelate completamente false. Con lo scandalo Lockheed infatti Giovanni Leone non ha niente a che fare, eppure quella vicenda è un paradigma, un esempio da manuale di come si costruisce uno scandalo e si sbatte un mostro in prima pagina. E dopo accuse assurde, fantasie giornalistiche, si tenta di farlo apparire come il destinatario delle tangenti americane in un modo veramente incredibile. Questa è la testimonianza del grande giurista Giuliano Vassalli. Si interpretò che l'uomo politico italiano che era coinvolto in questi affari a favore della Lockheed era stato ospite in America in un certo periodo e si era soffermato con la moglie o senza la moglie ad ammirare delle scarpe di antilope in un negozio. Ecco, si possono fare pure così i processi. Accusando un innocente solo perché si era confuso il soprannome antilope del percettore delle tangenti americane con il fatto che Leone, come diceva Salli, si era soffermato a guardare delle scarpe di antilope in un negozio. Così Francesco Cossiga. Pensare che sarebbe bastato pochissimo. E questo è il consiglio che ho dato. Bisognava dare zone di privilegio economico e finanziario al proprietario della Repubblica Espresso e tutto si sarebbe messo a posto. Dunque, dopo varie vicende giudiziarie, Mario Tanassi, ministro della difesa nel secondo governo Rumor, il politico italiano condannato per l'affare Lockheed. L'innocenza di Giovanni Leone era stata accertata da molto prima di arrivare al processo, ma quando arriva la sentenza della Corte Costituzionale nel marzo del 79, Leone si è già dimesso e si è dimesso da 9 mesi. E allora perché Leone ha pagato per tutti? Perché è stato scelto lui come capro espiatorio? Così risponde Emanuele Macaluso. Leone oggi appare, e lo fu, una vittima sacrificale di una situazione politica in cui la questione, diciamo così, di una fermezza su alcuni punti doveva essere affermata. E siccome i dubbi c'erano, diciamo così, questa campagna c'era. Una campagna di stampa dove tutte le accuse erano false. Sì, tutte le accuse erano false, non c'è dubbio che tutte le accuse si sono rivelate inconsistenti. 11 giugno 1978. L'ultima accusa si incentra su una presunta speculazione edilizia relativa alla Villa dei Leone, Le Rughe, appena fuori Roma. A Leone si contestano l'abusivismo edilizio e la frode fiscale. Ancora Gianluigi Melega e poi lo stesso Giovanni Leone. Noi dicemmo, questo è il Presidente della Repubblica, questo è quello che ha denunciato e questa è la casa dove vive, oltre al Quirinale, dove può stare naturalmente perché... Questa fu una cosa che al pubblico normale apparve comunque una stortura. L'accusa di Melega era veramente fantasiosa, assurda e calunniosa, perché non si può mettere a raffronto il reddito che risulta dalla denuncia fiscale di un anno con una spesa che si fa per la casa, perché è chiaro che chiunque come me ha fatto il professionista, l'avvocato per 40 anni, sia pure generosamente e disinteressatamente, ha il diritto di avere un cumulo, un risparmio che può investire in una casa in campagna. E non è certo con i redditi dell'anno in cui si costruisce che bisogna fare il raffronto, ma con tutto quello che nella sua vita l'uomo ha prodotto. Ma la giustizia fa il suo corso. Giovanni Leone e la sua famiglia non hanno commesso alcun illecito fiscale. Per le dimissioni di Giovanni Leone, insomma, non c'è nessuna ragione giudiziaria che coinvolga lui e la sua famiglia. Ma allora, che cosa ha provocato veramente quel gesto così clamoroso? Forse per capirlo dobbiamo rifarci allo scenario politico di quel momento. Siamo nei giorni difficili che seguono la morte di Moro, i giorni del governo di solidarietà nazionale e del compromesso storico fra DC e PC, che però a questo punto sono già in crisi. Ecco ancora Emanuele Macaluso. Penso che la morte di Moro è decisiva da questo punto di vista. La Democrazia Cristiana non ha più una guida forte, è scioccata da tutta la vicenda Moro, ma è scioccato anche il Partito Comunista. Insomma, quando si dice che la morte di Moro chiude una fase politica, non è che chiude solo il governo di solidarietà nazionale, ma chiude proprio una fase politica. Moro se n'era andato. Chi altri c'erano? C'erano dei amici che l'avevano stimato tantissimo e per cui aveva avuto anche la sua votazione a Presidente della Repubblica, ma come proprio amicizia così stretta da dire adesso mi rivolgo a questo amico che poi... Niente, assolutamente. Quindi. E poi, a parte questo, lui si isolò. Non volle sentire più nessuno perché capì che non c'era niente da ottenere da loro. Che poteva ottenere? Quando era assolutamente stato abbandonato. Io lo devo proprio dire. Dirò una cosa che potrà fare dispiacere, potrà fare questo, potrà fare quello, ma la verità è questa. Lui si sentì abbandonato. Non è che si sentì, è stato abbandonato. La campagna che faceva l'Espresso e facevano altri giornali era una campagna che toccava... che aggrediva anche il Partito Comunista, cioè come dire, cosa fate voi comunisti in definitiva, reggete il sacco a una Democrazia Cristiana che è rimasta quella che è, e uno dei suoi maggiori esponenti, diciamo così, che al Quirinale è in queste condizioni. Questa era la campagna, il senso della campagna era questo. Si può dire quindi che con le dimissioni di Leone è l'ultimo tentativo di salvare il compromesso storico? È l'ultimo tentativo di salvarlo, ma lo affossa. A un certo momento non si poteva più transigere, perché appunto c'era stato soprattutto l'esito del referendum contro il finanziamento ai partiti politici, che dimostrava un forte distacco tra il modo di pensare politico della nazione e quello che veniva rappresentato allora in Parlamento. Credo che da questo punto di vista i due maggiori partiti politici, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, pensarono che non ci si poteva sottrarre di dare un capro espiatorio all'opinione pubblica. Un capro espiatorio per l'opinione pubblica, ad ammetterlo, è uno degli stessi giornalisti che quell'opinione pubblica hanno contribuito a crearla. Eppure nella vicenda drammatica di Leone sembra esserci ancora qualche tassello che manca. Mix 24, la storia. Rieccoci qui a Radio 24 con la storia di Giovanni Leone, il Presidente della Repubblica che è stato accusato di tutto, che si è dimesso e poi riabilitato. Ma le accuse contro di lui, che si sono poi rivelate infondate, si mescolano a trame oscure, a intrighi, a ricatti. A ipotizzarlo è lo stesso Leone. E il 15 aprile dell'85 l'ex Presidente della Repubblica rilascia un'intervista al Corriere della Sera. Il complesso dei servizi segreti che era collegato alla P2 e era collegato a Pecorelli naturalmente costituisce un complesso di tradimenti. Un episodio inquietante sembra confermare le parole di Leone. È un incontro tra il capo della P2, Licio Gelli, e il segretario socialista Bettino Craxi, avvenuto molti anni prima. A rivelarlo è lo stesso Craxi, convocato alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2. Gelli mi disse, ma noi con una campagna di stampa siamo in condizione di cambiare il Presidente della Repubblica. Secondo la relazione di minoranza della commissione P2, le motivazioni di questa ostilità sono probabilmente da ricercarsi nella chiusura costantemente esercitata dal Presidente Leone nei confronti del venerabile della P2. Prosegue la relazione di minoranza della commissione P2. Sta di fatto che Mino Pecorelli, il direttore di OP, iscritto alla P2 e molto legato a Gelli, almeno nel periodo cui ci stiamo riferendo, scatenò una pesantissima campagna diffamatoria nei confronti del presidente Leone. Le prime vittime di Pecorelli sono i figli del presidente, seguiti passo passo nei loro primi flirt. Quanto a Donna Vittoria, invece, il codice diffamatorio si basa sul cliché dell'infedeltà. Secondo Pecorelli, insomma, sul colle se la spassano tutti, tutti tranne il presidente. Così la giornalista Camilla Cederna in un'intervista a Mixer. Per scrivere questo libro, rapidamente si è avvalsa di molti collaboratori. No. Che ha ringraziato, nel libro c'è scritto, ringrazio una serie di persone che le hanno dato una mano. No. Fra questi c'era Mino Pecorelli. Sono sicuro. C'era Pecorelli con il quale avevo parlato lungamente, sapevo che era un ricattatore, ah. Poi non nascondeva. Vi chiedo scusa. Questa fu la sua sensazione contro tutte queste dicerie maligne, bugiarde e anche cretine poi. Perché la verità poi viene sempre fuori, non è che a dire ecco qui questa è la prova. Qual era la prova? La prova è che i ragazzi uscivano con le belle ragazze. Io che cosa avevo fatto se non il mio dovere e che non avevo mai sfruttato nessuna situazione di cosa per me, perché io non avevo bisogno di fare niente di questo genere. Quindi lui ha dolorato non solo per lui ma per noi. Perché diceva non è colpa vostra, è solo colpa mia, tutto questo per causa mia. Ecco, e cominciò un po' a a soffrire di depressione. Da quel giorno del giugno del 78, da quelle dimissioni così drammatiche, ci vorranno esattamente 20 anni. 20 anni per chiudere finalmente una stagione di veleni e di calunnie. 20 anni per poter iniziare a capire chi è stato davvero Giovanni Leone. Il senatore Giovanni Leone compie 90 anni e Marco Pannella ed Emma Bonino gli chiedono scusa. Lo fanno chiamando in causa tutti coloro che nel 78 con i radicali furono promotori o complici della campagna che costrinse Leone a dimettersi da capo dello Stato. Giovanni Leone muore a 93 anni, il 9 novembre 2001. Mi manca la sua forza, mi manca la sua protezione. La mente di Giovanni era straordinaria, perché era una mente aperta, una mente che vedeva molto al di là, molto prima degli altri, il futuro. Dovrebbe rappresentare esattamente un insegnamento non solo per la politica, ma anche per i mass media. La rivalutazione. Ma che significa la rivalutazione? La verità sui fatti. Lui non ha bisogno di essere rivalutato, ma che è questa rivalutazione? Me lo dice. È solamente il chiarimento delle cose di cui lui è stato accusato e che si chiariscono e quindi ne viene fuori il personaggio che è quello che è. Claudio Cerasa, giornalista e caporedattore del Foglio. Giovanni Leone, una storia drammatica di un uomo per bene distrutto e poi riabilitato. Cosa insegna la sua storia? Insegna che bisogna essere sempre prudenti. Prima di convincersi che qualcosa è accaduto soltanto perché ci sono delle informazioni o delle questioni parziali che ci raccontano la vita di una persona, bisogna essere certi di essere di avere la verità su quella persona e quindi utilizzare le parole, le dichiarazioni con prudenza. E questo, diciamo, è una lezione che tuttora è forte ed è valida. La presidenza di Napolitano, per esempio, in futuro come sarà ricordata? Credo che c'è un passaggio importante che riguarda proprio il rapporto che Napolitano ha avuto con la sinistra rispetto al tema della giustizia. Napolitano è stato il primo grande leader il primo grande leader appartenente a un partito o un'area di sinistra, perché poi in realtà Napolitano non è mai stato iscritto al PD, che ha costretto la sinistra a fare i conti con la questione morale. Napolitano ha costretto la sinistra a uscire fuori dal perimetro del moralismo berlingueriano e anche del giustizialismo, e questo in una prima fase ha messo il PD e la sinistra di fronte a un cambiamento storico. Dici attraverso il processo sulla trattativa Stato-mafia? Esatto, attraverso, diciamo, il suo atteggiamento combattivo e non soltanto dialettico nei confronti di una procura molto attiva e per alcuni versi non anche politicizzata, come alcuni magistrati della procura di Palermo, ex magistrati soprattutto. E quindi quel tipo di partita ha portato la sinistra a compiere alcune decisioni importanti, cioè scegliere da che parte stare. E per la prima volta dopo molti anni la sinistra ha capito che i magistrati non sempre sono il bene assoluto, ma possono essere anche criticati. Per esempio, dove l'ha capito? L'ho capito esattamente in due fasi, sia quando Napolitano ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale per la questione legata alle intercettazioni che lo riguardavano seppur indirettamente, e lì la sinistra e il Partito Democratico ha dovuto scegliere da che parte stare. Ora ci risiamo, il Parlamento sta per eleggere un nuovo Presidente della Repubblica. Colpo da maestro quello di Renzi di far coincidere il voto al Senato sulla legge elettorale e l'elezione del Presidente della Repubblica? Dovesse riuscire davvero tutto quanto, sarebbe certamente un colpo da biliardo. Perché lo è? Lo è perché Renzi può utilizzare l'arma della legge elettorale approvata per costringere Berlusconi e anche Forza Italia a stare dalla sua parte. Mi spiego meglio: con la legge elettorale approvata Renzi ha un debito con Berlusconi che può saldare attraverso la nomina di un Presidente della Repubblica che possa essere in sintonia con il patto del Nazareno. Qualora invece la legge elettorale non dovesse essere approvata, ci sarebbe invece un contesto diverso in cui Forza Italia e Berlusconi avrebbero un rapporto chiaramente più problematico rispetto a quello che ci sarebbe in caso contrario. Claudio Cerasa, Renzi rischia tutto o ha un'alternativa? Rischia tutto, Renzi rischia tutto, come ormai fa da un anno. Ogni volta che c'è una partita complicata a rischio, Renzi punta tutto quanto quello che ha di fronte a sé, e prendere o lasciare, o vincere tutto o perdere tutto. Difficile che perda tutto, però insomma, se la partita del Quirinale dovesse concludersi in maniera scombinata, per Renzi sarebbe un grandissimo pasticcio e un grande problema. Cioè a casa? Cioè, sì. No, a casa no, però è una posizione di debolezza dalla quale avrebbe più difficoltà a portare avanti i suoi progetti, anche per seguire il suo percorso. E il Movimento 5 Stelle come voterà? Il Movimento 5 Stelle è assolutamente rilevante, secondo me. Quel che sarà rilevante sarà se Renzi riuscirà a conquistare i senatori e parlamentari che sono fuoriusciti in questi mesi dal 5 Stelle, che sono una bella truppa, tra i 20 e i 30 parlamentari, quindi loro potrebbero essere fare la differenza. Sì. Grazie Claudio Cerasa. Grazie a voi. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. Mix 24.